Capitolo 7. I Carraresi. Montagnana e dintorni, estate 1318. Pietro aveva i capelli grigi alle tempie, lo stesso grigio che suo padre Milo aveva avuto quando gli raccontava le storie sulle mura, in quelle notti lontane sotto le stelle. Il tempo aveva fatto il suo lavoro silenzioso, come sempre, senza chiedere permesso a nessuno. Pietro aveva 60 anni e portava i segni di una vita trascorsa tra le mura di una città che aveva imparato a essere libera, con la stessa fatica con cui si impara qualsiasi cosa che vale davvero. Milo se n'era andato 20 anni prima, in una mattina d'inverno del 1298, seduto accanto al fuoco con lo sguardo rivolto verso la finestra, da cui si vedeva un angolo di mura. Se n'era andato tenendo in mano il piccolo scudo di ferro, con la pace di chi ha fatto quello che doveva fare. Pietro aveva pianto una sola notte. Poi si era alzato, aveva preso il piccolo scudo dalla mano di suo padre e aveva continuato. Era quello che si faceva a Montagnana. Si continuava. Il vecchio Bertone era morto molto prima, nella sua casa vicino alle mura, nel sonno, come aveva sempre detto di voler morire. Fante il calzolaio aveva ceduto la bottega al figlio. Agnese la vedova era diventata nonna 3 volte prima di spegnersi serenamente. Don Ilario, diventato arciprete, aveva smesso di usare il confessionale per raccogliere notizie di guerra, o almeno così diceva. Accanto a Pietro, quella mattina di luglio, sedeva Giacomo di Megliadino. Non il Giacomo che Milo aveva conosciuto nel 1244. Quel ragazzo dai capelli rossi era morto da molti anni, le gambe mai guarite del tutto da una caduta sui sentieri dell'Adige. Ma suo figlio, che portava lo stesso nome per volontà del padre e la stessa risata facile per dono della natura, aveva i capelli color rame, come il padre prima che incanutisse, e quella stessa aria di chi trova le cose del mondo ovvie e degne di allegria. Aveva poco più di 60 anni, come Pietro, e li portava con la solidità di chi ha vissuto senza sprecare troppo tempo a lamentarsi. «I Carraresi si muovono», disse Giacomo, sedendosi accanto a Pietro sulla panca, davanti alla bottega che era stata di Corrado, e adesso era di Luca, il figlio giovane di Pietro. Jacopo da Carrara ha sconfitto gli Scaligeri. Il 15 di questo mese lo hanno nominato capitano del popolo a Padova. Pietro annuì lentamente. Conosceva i Carraresi come si conoscono i vicini con cui si è condivisa una parete sottile per molti anni, abbastanza da sapere che non erano né santi né demoni, ma uomini di potere con le ambizioni e le debolezze che quel ruolo portava con sé. «Cosa vogliono da Montagnana?» «Quello che vogliono tutti», disse Giacomo, con quella sua semplicità disarmante. «La città, le mura, la posizione. La chiave tra Verona e Padova non cambia valore con i secoli». «E Can Grande della Scala?» Giacomo aprì le mani in un gesto eloquente. «Can Grande è il vicario imperiale. Ha i denti lunghi e le braccia più lunghe ancora. Prima o poi Jacopo dovrà fare i conti con lui». Come sempre, Giacomo aveva ragione. L'anno seguente, Jacopo da Carrara dovette cedere le fortezze padovane a Can Grande, Montagnana compresa. La città cambiò ancora padrone con quella consuetudine ormai antica che aveva insegnato ai montagnanesi a guardare ogni nuova signoria con occhi aperti e cuore cauto. Ma fu con i Carraresi successivi che qualcosa cominciò a cambiare davvero. Ubertino da Carrara arrivò a Montagnana in una mattina d'autunno del 1340 con un piccolo seguito di consiglieri e architetti, non con un esercito. Questo, Luca, che aveva preso il posto del padre nelle cose della città, Pietro essendo morto qualche anno prima, notò subito, con quella stessa acutezza che sembrava passare di generazione in generazione, nella famiglia del fabbro. Era un uomo di mezza età, con una fronte alta e le mani di chi è abituato a tenere penne, oltre che spade. Si fermò a lungo davanti alle mura, camminando lungo il perimetro con uno dei suoi architetti, indicando punti, chiedendo misure, ascoltando risposte con quella particolare attenzione di chi prende le decisioni dopo aver capito davvero. Luca fu chiamato come testimone della città, uno di quelli che conoscevano ogni pietra delle mura, ogni storia di ogni torre. Si trovò a camminare accanto a Ubertino per un tratto del perimetro, rispondendo a domande tecniche sulla solidità dei bastioni, sulle condizioni dei fossati, sul fiumicello che scorreva a ridosso delle difese. «Le mura occidentali sono le più esposte», disse Luca, indicando il tratto che guardava verso la pianura aperta. «Se un esercito arriva da ovest con macchine d'assedio, quella è la debolezza. Mio nonno Milo lo disse al suo tempo. Nessuno lo ascoltò abbastanza in fretta. Ubertino lo guardò con attenzione. «E cosa proporresti?» «Un bastione più avanzato», disse Luca, dopo un momento. «Una rocca che controlli l'accesso occidentale, abbastanza forte da resistere anche se le mura cedessero». Ubertino annuì lentamente, come se quella risposta confermasse qualcosa che aveva già deciso. «Ci pensiamo», disse semplicemente. Nel frattempo, lungo le strade del Montagnanese, la vita riprendeva i suoi ritmi antichi, con la tenacia delle cose che non vogliono morire. Da Casale di Scodosia arrivavano i contadini con i prodotti dei campi bonificati, trasformati con secoli di lavoro da paludi inabitabili in terra fertile. I pescatori di Santa Margherita d'Adige risalivano il fiume con le barche cariche e le donne di Saletto vendevano al mercato le erbe raccolte lungo le rive, dove i salici piegavano i rami nell'acqua corrente. A Merlara i mercanti levavano i loro banchi sotto gli stemmi con i due merli, simbolo di quella vigilanza mai spenta che aveva permesso al borgo di sopravvivere a ogni dominazione. A Urbana i monaci del convento insegnavano ai giovani a leggere e scrivere, conservando nelle loro pergamene la memoria di tutto ciò che era accaduto, affinché nessuna generazione dovesse ricominciare da zero. E lungo l'Adige, da Castelbaldo a Masi, le barche continuavano il loro antico commercio tra Verona e il mare, indifferenti ai cambi di signoria, come lo è il fiume, al cambio delle stagioni. Fu il figlio di Giacomo, giovane Matteo, dai capelli ancor più rossi del padre, a portare a Luca la notizia più importante di quell'autunno, arrivando trafelato dalla strada di Megliadino. «Gli armigeri di Castelbaldo», disse senza nemmeno sedersi. «Francesco da Carrara li ha confermati. 400 soldati, 80 gè da cavallo. Ha fatto sapere che Castelbaldo resta piazzaforte contro gli scaligeri. Le truppe rimangono». Luca sentì qualcosa scaldarsi nel petto. Pensò alla notizia che suo nonno Milo aveva ricevuto anni prima, la pergamena consumata sul tavolo di Fante il calzolaio, le parole che parlavano di soldati pronti a muoversi lungo il fiume. Gli stessi soldati, o i figli dei loro figli, erano ancora lì, sulle rive dell'Adige, guardiani di una via che era sempre stata maestra tra il mare e le terre venete. «Castelbaldo ha tenuto», disse sottovoce. «Castelbaldo tiene sempre», disse Matteo, con la stessa aria di ovvietà allegra che aveva caratterizzato suo padre e suo nonno prima di lui. «È quello che fanno, sulle rive del fiume. Tengono». Quella sera Luca salì sulla torre che aveva conosciuto da bambino, il vecchio camminamento dove suo nonno Milo aveva passato tante notti di guardia. Le mura di pietra si stendevano intorno alla città come un abbraccio solido e eterno, così diverse dalle mura di legno dell'infanzia di Milo, quelle che erano bruciate in una notte sola. Guardò la pianura che si estendeva verso sud, verso Casale di Scodosia e i suoi campi, verso est, dove le terre di Saletto e Santa Margherita si perdevano nella nebbia dell'Adige, verso nord, dove Megliadino San Vitale e San Fidenzio dormivano tra paludi e boschi ancora selvatici, verso ovest, dove Merlara custodiva i suoi segreti antichi, e verso il fiume, dove Castelbaldo e Masi vegliavano sull'acqua che non dormiva mai. 10 comuni, 10 storie diverse, 10 destini intrecciati dalla stessa pianura, dagli stessi fiumi, dagli stessi secoli di guerra e di pace. Padre? Si voltò. Andrea era salito silenzioso alle sue spalle. Il figlio di Luca, ancora un ragazzo dai capelli scuri e gli occhi chiari. Quegli stessi occhi chiari che si tramandavano in quella famiglia come un segno di riconoscimento tra le generazioni. «Cosa guardi?» chiese il ragazzo. Luca indicò la pianura con un gesto largo che voleva abbracciare tutto. «Il Montagnanese», disse. «Guardalo bene. Ogni borgo, ogni torre, ogni campanile, ogni pezzo di questa terra ha una storia che vale la pena di conoscere». Andrea si avvicinò al bordo del camminamento e guardò nella direzione indicata dal padre, con quella concentrazione seria che Luca riconosceva come propria. «Me la racconti?» Luca sorrise. Era un sorriso vecchio e stanco e pieno di cose che non avevano parole. «Ci vorrebbe tutta la notte», disse. «Ho tutta la notte», rispose Andrea semplicemente. E così, sulle mura di Montagnana, mentre la luna saliva sulla Sculdascia e le stelle si accendevano una a una sopra i 10 comuni, Luca cominciò a raccontare. Dall'inizio, dalla bottega di Corrado, dalla notte di fuoco, dagli occhi indifferenti di Ezzelino, dal piccolo scudo di ferro che portava ancora appeso alla cintura come un talismano. Raccontò di Bertone e di Fante e di Agnese, degli armigeri di Castelbaldo che avevano aspettato il segnale sulle rive dell'Adige, di Giacomo e della sua risata impossibile in tempo di guerra, del sacco di farina, delle mura che erano cresciute dalla cenere più forti di prima. Raccontò tutto, mentre la notte scendeva sulla pianura e i 10 comuni dormivano nella loro antica pace faticosa. E Andrea ascoltò ogni parola, come si ascoltano le cose che devono essere ricordate.